Vuoto Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Una buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori, e benvenuti a Vota Antonio, l'appuntamento con il quale settimanalmente cerchiamo di fare il punto su quello che è successo, su quello che succederà in merito a rete e politica. Oggi, così come abbiamo fatto ieri con Nove in Punto, vi trasmettiamo da Santa Margherita Ligure, dove si svolge il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Di cosa parleremo questa settimana? Allora, innanzitutto di riforme istituzionali, perché i nostri amici di Voices from the Blogs hanno realizzato per noi, in anteprima per noi, una ricerca, come sempre realizzata su Twitter, proprio a proposito di riforme istituzionali. E pensate un po', a quanto pare c'è un sacco di gente che le ritiene urgenti, quindi forse il nostro, almeno il mio polso personale da questo punto di vista era sbagliato. Sul presidenzialismo molti non sono d'accordo, però andremo nel dettaglio e ve lo racconteremo tra poco. Poi ci occuperemo ancora di parole di violenza in rete, tanto ne avevo discusso nelle scorse settimane, dopo una sorta di allarme lanciato dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, alla quale hanno fatto eco altre parole, anche gente che se n'è andata proprio per la cosiddetta violenza della rete. Ebbene, proprio lunedì alla Camera dei Deputati, in un appuntamento voluto da Laura Boldrini, appunto, si parlerà di questo. Sarà presente anche il Consiglio d'Europa e la vicepresidente del Consiglio d'Europa sarà con noi oggi e ci spiegherà che tipo di campagna stanno lanciando da questo punto di vista. Infine, questo non potevamo farcelo mancare ovviamente, tutta la vicenda di quello che potremmo definire lo spionaggio dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Americana sugli utenti, a questo punto non solo Verizon e quindi non solo telefonici, ma un po' di tutta la rete. Di tutto questo si sta parlando. E si parla anche, insomma, oltre che di controllo per prevenire eventuali atti di terrorismo, si parla di controllo per la prevenzione del cosiddetto cyberterrorismo o cyberguerra. Ebbene, quello che ci vogliamo chiedere è se tutto questo non sia in realtà sia il controllo per il terrorismo, sia il controllo sul cyberterrorismo, sia quello sulla cyberguerra, un modo in realtà per controllare gli utenti internet e avere una sorta di intrusione pesante nella loro privacy con delle scuse, con altri fini. Di questo parleremo più avanti con una persona che di queste cose se ne intende. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, come sempre, in questa seconda parte della nostra trasmissione. È il momento di fare il punto su questa settimana, come sempre, con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno, Simone. Allora, naturalmente settimana dominata dal punto di vista politico da tutte le discussioni sulle riforme istituzionali con, devo dire, qualche scarsa speranza e questo cronoprogramma di 18 mesi. Che cosa dici? Perché quando si fanno poi tutti questi comitati di esperti, di tecnici, si vuole anche un po' nascondere la mancanza di un accordo politico, che infatti non c'è. Però non si vuole nemmeno dare l'impressione di una resa, e quindi si creano questi comitati destinati a fare delle storie, cioè a stabilire quali sono tecnicamente le soluzioni del problema. Quando avremo trovato la soluzione del problema tecnica, ci sarà però sempre il problema del punto di impatto politico. Se non c'è un accordo politico non c'è nessuna soluzione tecnica che tenga. E quindi si guadagna un po' di tempo, fermo restando che quei 18 mesi indicati un po' da tutti come il termine utile per fare queste riforme rimangono, dovrebbero rimanere, perché altrimenti si rischia il solito brodo allungato che abbiamo già conosciuto in altre situazioni. Del resto, lo stesso Enrico Letta ha voluto legare abbastanza nitidamente, no? L'andamento di questa legislatura, l'andamento del suo governo, la permanenza in carica del suo governo proprio alle riforme istituzionali. Nel frattempo, però, in settimana abbiamo assistito a un discreto chiarimento. Ha voluto dire che il respiro in realtà è di legislatura, ossia di 5 anni. Secondo te, Stefano, se saltasse il banco delle riforme, salterebbe anche il governo? Sì, io penso che non ci si possa condannare a, come si diceva una volta, vivacchiare, tirare a campare. Questo è un governo che, se puntasse soltanto a durare nel tempo, farebbe un danno a se stesso e soprattutto al paese. Quello che Letta, secondo me, vuole cercare di dire, ma lo dice anche il Presidente della Repubblica in altra forma, è che questo è un governo che ha bisogno di una missione, qualche cosa che l'opinione pubblica possa interpretare come un grande obiettivo. Ora, siccome nel campo della politica economica è difficile avere obiettivi che mobilitino la fantasia degli italiani e le suggestioni di un tempo, perché non ci sono risorse, non c'è denaro da distribuire, siamo in una situazione molto, molto difficile. L'idea di un rinnovamento dello Stato, ecco, quello potrebbe essere una missione in grado di suscitare un po' di emozione, però bisogna riuscirci, perché un fallimento sarebbe un boomerang terribile. Questo per quanto riguarda le riforme istituzionali. Si parlava appunto di respiro di legislatura. In realtà, al momento, anche dal punto di vista delle prospettive di riforma economica, questo respiro di legislatura, Stefano, non si vede un granché, no? L'idea non si vede mai, nessuno ti dà la garanzia scritta all'inizio che un governo potrà durare nel tempo. Se la deve conquistare giorno per giorno la possibilità di durare niente meno che una legislatura. Sì, ma per respiro, Stefano, intendevo come disegno, diciamo così. Ecco, al momento il disegno non c'è, ecco, se certo. Proprio, no? No, non c'è, c'è una grande coalizione che dovrebbe, essendo qualche cosa che avviene in momenti eccezionali, dovrebbe essere sostenuta da una volontà eccezionale. Invece c'è una grande coalizione e poi c'è un senso un po' di ordinaria amministrazione per adesso. Speriamo che l'estate porti qualche consiglio. Abbiamo iniziato a vedere, come forse era prospettabile, qualche crepa all'interno del Movimento 5 Stelle, no? Insomma, parlamentari che iniziano ad andarsene, a lasciare il gruppo, poi la vicenda, devo dire la verità, abbastanza buffa di Vito Crimi, che si perde o per le stanze del Senato, non ho capito bene se per le stanze del Senato o per Roma, nel momento nel quale deve votare l'avvocato Giarrusso. Insomma, inizia a sentire qualche tensione, forse anche post-elettorale, il Movimento 5 Stelle. Io credo che siamo all'inizio di un periodo di crisi molto forte di questo non partito, di questo movimento, che deve diventare più adulto. Ha vinto le elezioni senza che ci fosse palesemente una base, una sostanza, qualche cosa che fosse un rapporto realmente vitale e profondo con un elettorato. L'elettorato ha votato personaggi sconosciuti, e questi personaggi sconosciuti, naturalmente, arrivati in Parlamento, molti di loro danno anche una cattiva prova di sé. Ci sono anche personaggi che invece, secondo me, stanno dando una buona prova, per esempio questo vicepresidente della Camera, Di Maio, mi sembra una persona molto seria, e questo dimostra che probabilmente questo movimento andrà incontro a una crisi profonda, e poi vedremo se una parte di esso riuscirà a fare un discorso più costruttivo per quanto riguarda la possibilità di contribuire in qualche forma anche dall'opposizione, ma contribuire positivamente al governo del paese. Ecco, secondo te, Stefano, a guardare i dati delle amministrative, pur naturalmente sporcati proprio dal fatto che sono elezioni amministrative innanzitutto, e poi da una astensione che abbiamo già commentato e che è stata altissima, a guardare quei dati, forse il Movimento 5 Stelle potrebbe aver trovato un suo zoccolo duro, insomma, intorno a quel 10-11%, o secondo te è a rischio di uno sfaldamento ulteriore? Ma è difficile dirlo, è chiaro che c'è uno zoccolo duro, perché il malessere che ha motivato quel voto rimane ancora, però è anche vero che c'è una grande delusione tra gli stessi votanti di febbraio, che adesso vedono con una qualche scoramento come il movimento si comporta in Parlamento. Molta gente pensava che avesse la bacchetta magica, ecco, arrivavano in Parlamento e l'aprivano come una scatoletta, come diceva Grillo. Poi la realtà è sempre molto più complicata. Anche fare l'opposizione totale, l'antipolitica, è molto difficile anche quella. Infatti è un'espressione che non mi piace, antipolitica, perché in realtà si tratta di fare politica in un modo diverso. Ultima questione, anzi l'ultimo paio di questioni in realtà, Stefano, gli altri due, i due grandi partiti che compongono questa coalizione, appunto il Partito Democratico, con un Renzi che francamente io non ho ancora capito che vuole fare, perché cioè, un giorno pensa a fare il segretario, il giorno dopo non ci pensa. Insomma, forse l'arrivo di Letta sulla scena, un qualche problema all'interno del partito potrebbe averglielo creato, o è altro? Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. Renzi gode ancora di una situazione favorevole, perché poi è molto bravo, è un comunicatore efficace, però anche lui deve decidere cosa vuole fare da grande, come si dice. Se rimane in questa posizione così irrisoluta ancora a lungo, comincerà anche per lui una china discendente. Secondo me lui dovrebbe fare un accordo molto stretto con Enrico Letta e anche con Epifani, un accordo stretto che possa aprire lui la strada della guida del Partito Democratico, ma poi deve pensare che deve costruire questo partito, deve ricostruirlo, gli ci vorrà magari 2 o 3 anni, e in questi 2 o 3 anni a mio avviso lui deve essere leale nei confronti di Letta, con il quale secondo me dovrebbe aver sottoscritto un patto, invece di queste punzecchiature quotidiane che non servono a niente e che non aiutano nemmeno lui, Renzi, a diciamo a definire il suo profilo, la sua immagine di leader. Sì, e nemmeno ad accreditarsi insomma come uomo responsabile all'interno del PD, operazione tentata nel momento dell'elezione del Presidente della Repubblica. Ultima questione, il PDL, là ancora siamo agitati tra le questioni della giustizia e poi queste dichiarazioni di Berlusconi sul braccio di ferro che Enrico Letta dovrebbe fare. Ma con una dichiarazione da non prendere sul serio, non vanno giudicate nel merito, perché nel merito sono cose che hanno poco senso. Il primo a non aver fatto nessun braccio di ferro con la Merkel era Berlusconi quando governava fino al 2011, quindi è che sono il sintomo del nervosismo di Berlusconi, che aspetta come si concludono le sue vicende giudiziarie. È come se lui dicesse cercate di aiutarmi, cercate di aiutarmi a essere quello che ho voluto essere in queste settimane, in questi mesi, cioè il puntello del governo. Sono sintomi del nervosismo. Grazie anche per questa settimana, Stefano Folli, e buona giornata. Ciao. Buona giornata, Stefano Folli. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo parlato di riforme istituzionali, ebbene tra poco con i nostri amici di Voices from the Blogs andremo a capire come la si pensa su internet, in particolare su Twitter, proprio a proposito di riforme istituzionali, con qualche sorpresa interessante, qualche elemento interessante di riflessione anche per quanto riguarda la legge elettorale e il presidenzialismo. Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci, come sempre, all'inizio di questa parte, di questa terza parte di Vota Antonio, incontriamo i nostri amici di Voices from the Blogs, lo ricordiamo sempre, un progetto dell'Università Statale di Milano, trovate molti dettagli sul loro sito www.voicesfromtheblogs.com, ecco, non me lo ricordo mai se è un com o un it. E con Luigi Curini, che saluto, bentornato Luigi. Grazie mille, ciao a tutti. Allora, questa settimana ci avete fatto ci date in anteprima questa analisi sulle riforme istituzionali. Devo dirti che io sono rimasto, quando ho visto i dati, abbastanza colpito, perché insomma non è che immagini tutti questi capannelli di gente che per strada chiacchierano di appunto riforme istituzionali e presidenzialismo, e invece in rete i segnali son diversi. Sì, diciamo così che noi abbiamo fatto questa analisi nell'ultima settimana e il numero complessivo di tweet che sono stati postati, che discutevano del tema delle riforme istituzionali, più o meno sono stati 30.000. Sembrerebbe un numero in effetti molto elevato, però se tuttavia lo confrontiamo con le altre analisi che abbiamo fatto anche recentemente, questo numero in realtà mostra che sì, c'è un interesse nella rete verso il tema delle riforme istituzionali, ma forse con qualche sbadiglio, perché è giusto per fare qualche numero. L'analisi, i tweet che erano stati postati, che discutevano nei tre giorni successivi all'avvio del governo Letta, erano ben 80.000. I temi, nel due settimane fa, la discussione sul tema sullo stato dell'economia in Italia, anche in questo caso avevamo più o meno raccolto tra i 60 e 70.000 tweet. Quindi sì, è un tema di cui si discute, ma forse ancora con un po' di indifferenza. Questo appunto per quanto riguarda i numeri, e naturalmente però chi ne discute è qua, qua scopriamo qual è il punto, chi ne discute le ritiene importanti evidentemente. Sì, assolutamente, tra quelli che discutono di questo tema più o meno l'80% ritiene che le riforme istituzionali siano un tema importante, e una percentuale chiaramente superiore di chi invece, e qua si dividono fra un 10% che ritiene le riforme istituzionali sì importanti, ma in qualche modo secondarie rispetto al tema dell'economia, che per questa percentuale di persone è il vero tema su cui occorre discutere, e un 10% che invece ritiene del tutto inutili a questo stato della situazione. Benissimo, e poi c'è la questione presidenzialismo, che, meglio, il presidenzialismo non raccoglie grandissimo successo a quanto pare. Sì, sicuramente, perlomeno in questo momento, rimane forte un certo sospetto scetticismo da parte di chi scrive in rete nei confronti di qualche riforma della forma di governo italiano che permetterebbe di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica dandogli una gamma di poteri esecutivi, come potrebbe essere il presidenzialismo o il semipresidenzialismo. Tra quelli che parlano di questo tema, il tema del presidenzialismo viene bocciato ogni 10 commenti più o meno 7 sono sfavorevoli. Un punto interessante a questo riguardo è anche capire le ragioni che stanno dietro a perché si esprime in questo momento la rete così in modo contrario. Certo, perché appunto c'è un rischio di concentrazione del potere nel 60% dei casi, e poi c'è il famoso favorisce Berlusconi nel 20% dei casi, quindi c'è evidentemente anche questo elemento, e poi ostacola la riforma della legge elettorale nel 15% dei casi, mentre invece per andare sui pregi, insomma su chi ci trova pregi, garantisce più governabilità secondo il 66,4% e garantisce agli elettori la libertà di scegliere il capo dello Stato nel 33,6%. Anche la legge elettorale avete vagliato, dunque cosa piace soprattutto? Ma guarda, forse è un risultato che, se vogliamo, è anche un po' sorprendente, tenendo presente un po' la cultura tipica italiana sul tema del sistema elettorale, perché quello che noi abbiamo visto è che chi si schiera chiaramente a favore del proporzionale, pur criticando l'attuale sistema elettorale, il cosiddetto Porcellum, è comunque una minoranza del numero complessivo delle persone che si esprimono sul tema, e paradossalmente sembrerebbe esserci un qualche sorta di revival per il precedente sistema elettorale, cioè un sistema elettorale misto, il cosiddetto Mattarellum, e non è neanche secondaria la percentuale di persone che vorrebbero un sistema maggioritario, in particolare un sistema elettorale a doppio turno, su cui anche su questo tema c'è molta discussione in questi giorni. Grazie anche per questa settimana a Luigi Curini e agli amici di Voices from the Blogs. Trovate i risultati di questa indagine, oltre che li metteremo sul nostro sito, li trovate su sentimeter.corriere.it, il loro sito è www.voicesfromtheblogs.com. Grazie Luigi e buona settimana naturalmente. Grazie. Ed eccoci di nuovo, adesso vi vogliamo parlare di un appuntamento che ci sarà lunedì prossimo alle 15 a Montecitorio. È un seminario promosso direttamente dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, che si intitola Parole libere o parole d'odio, prevenzione della violenza online. Come sapete, su questo tema ci siamo esercitati molto nel corso di questa trasmissione, ne abbiamo parlato parecchio, proprio in conseguenza delle stesse parole di Laura Boldrini. Ci siamo interrogati sul fatto, insomma, se servisse una qualche nuova forma di legge oppure no. Ne abbiamo concluso, almeno ne ho concluso io, che la questione è essenzialmente culturale, insomma, ci vuole evidentemente una qualche campagna, appunto, per promuovere insomma, un po' più di moderazione, ecco, quantomeno del linguaggio in rete. È quello che sta facendo, tra l'altro, il Consiglio d'Europa con una campagna che si chiama No Hate Speech. Abbiamo al telefono con noi il vice segretario del Consiglio d'Europa, Gabriella Battaini Dragoni, che tra l'altro sarà proprio lunedì alla Camera. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci spiega questa campagna, che cosa intendete per hate speech? Ci riferiamo evidentemente al discorso dell'odio e cerchiamo attraverso questa attività di promuovere una serie di iniziative, soprattutto con i giovani, nell'insieme dei nostri 47 Paesi membri. Lei diceva giustamente, presentando questa informazione, che il problema è soprattutto un problema culturale. Io vorrei sottolineare questo aspetto del problema, perché è vero che la situazione di scomparsa del civismo e questo reciproco rispetto che si sta verificando nella nostra società, è vero che avvelena il clima di convivenza e i rapporti umani fondamentalmente all'interno delle nostre società. Il Consiglio d'Europa, che lavora da decenni praticamente con i giovani, ha ritenuto opportuno sostenere una campagna che veniva dai giovani e che cercava di capire come far fronte al discorso dell'odio nell'internet. Abbiamo quindi avuto una serie di iniziative per lanciare la campagna qui a Strasburgo. Diversi paesi, 5 paesi, hanno costituito un comitato nazionale per aiutare i giovani a essere presenti sull'internet e quindi portare un discorso di civiltà, di rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità di ciascuno. E lunedì a Montecitorio avremo l'occasione di aprire con questo seminario lanciato dalla Laura Boldrini insieme a tutta, avremo la possibilità di dare un'informazione dettagliata su a che punto siamo con la campagna nell'ambito europeo e poi più specificatamente la ministra delle pari opportunità potrà spiegare a che punto è la campagna in Italia con i giovani italiani. Le chiedo a questo punto di anticiparci qualcosa su, insomma, su come sta andando questa campagna, come sta funzionando, che, insomma, come si articola e che cosa state riuscendo a raccogliere. Allora, innanzitutto la campagna ha come obiettivo educare e non vietare, ma piuttosto, diciamo, sensibilizzare soprattutto i giovani all'esistenza di questo gravissimo problema che è proprio quello del discorso dell'odio sull'internet. Il secondo grande obiettivo è quello di cercare poi di soccorrere e sostenere le vittime. Per far tutto questo abbiamo creato un punto focale qui a Strasburgo presso il Consiglio d'Europa che serve per il coordinamento generale della campagna, visto che la campagna si svolge sull'insieme dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa. Poi, come le dicevo, ogni paese organizza la propria campagna nazionale con un comitato che ovviamente dirige la campagna nei diversi paesi individualmente e sottolineavo la presenza di 5 paesi, l'Italia sarà il sesto a fare un lancio, diciamo, ufficiale. Noi abbiamo creato una piattaforma qui a Strasburgo che permette a tutti i giovani che vogliono partecipare a questa grande campagna di poter essere associati. Posso darle anche ovviamente l'indirizzo. Sì, volentieri. Rivolgere, è un indirizzo molto semplice, è www.nohatespeechmovement.org. Benissimo. Quindi, se qualche giovane ci sente e vuole assolutamente essere un attore della nostra campagna, può rivolgersi e indirizzarsi a questo indirizzo che le ho appena dato, e in questo modo si mette in contatto diretto con la nostra piattaforma, che dà tutta una serie di poi su come agire e su come procedere nelle settimane e nei mesi prossimi. Tenga conto che per strutturare il lavoro in un certo modo, noi lasciamo ovviamente i comitati nazionali estremamente liberi di intraprendere tutte le attività che Sì. riterranno opportune, però noi stessi proponiamo una serie di appuntamenti durante l'arco del prossimo anno, una serie di appuntamenti che corrisponderanno con date estremamente interessanti. Abbiamo già festeggiato recentemente il 17 maggio la giornata contro l'omofobia. Festeggeremo in giugno, il 20 giugno, la giornata dei rifugiati. Il 22 luglio sarà la giornata dedicata al crimine, quindi di odio. Il 12 agosto ci sarà una giornata specifica per i giovani e via dicendo, non sto ora a darle Sì, ovviamente no, tutta la lista, non ma tutte le chi date. potrà Sì. accedere alla piattaforma avrà tutte queste informazioni e quindi si potrà in particolare attivare in occasione di queste date. Benissimo, benissimo. Mi sembra un'operazione interessante che, ripeto, va nella direzione che quantomeno auspichiamo da queste parti e quindi non nuove norme di legge, ma semplicemente Esattamente. appunto un'operazione culturale. Grazie a Gabriella Battaini Dragoni per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro e insomma bentornata in Italia per quando arriverà lunedì mattina per il convegno. Insomma, La buona, ringrazio, grazie, grazie, arrivederci. buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, dopodiché nell'ultima parte parliamo di insomma, tutta la vicenda Obama, di questo spionaggio da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza ai danni appunto non solo degli utenti telefonici, ma anche di chi usa internet, anche se insomma, le informazioni al momento sono abbastanza controverse, vedremo di capire che cosa c'è dietro. Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Non potevamo non occuparcene della vicenda che sta un po' dominando le prime pagine dei quotidiani in queste ore, la vicenda della National Security Agency, che è l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale Americana, che si è appreso da almeno 6 anni, controlla e monitora le comunicazioni online all'estero. Dunque, di questo vogliamo parlare oggi con Stefano Mele dell'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli, che si occupa esattamente di questo, non di questo nello specifico, ma di queste vicende qua, appunto, delle questioni della sicurezza online. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, salve, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, ci aiuta ad inquadrare la cosa innanzitutto? Sì, assolutamente. È successo che ieri, per essere precisi, è saltato fuori un documento classificato attraverso il quale la National Security Agency, molto più banalmente conosciuta come NSA, richiedeva e richiede alla società, a quanto pare Verizon americana, l'ordine di registrare e trasmettere alla National Security Agency stessa i dati relativi alle telefonate di milioni di utenti. E poi Ovviamente. però è emerso il fatto che in realtà questa operazione veniva compiuta non solo sul traffico telefonico, ma anche sul traffico online, o almeno c'era una richiesta in questo senso, nei confronti dei grandi della rete. Assolutamente sì. Oggi è notizia di oggi, riportata dal Wall Street Journal, che a quanto pare non sarebbe soltanto un ordine emanato nei confronti di Verizon, ma anche di AT&T, di Sprint Nextel, ma anche nei confronti di Facebook, Google, Yahoo, quindi insomma dei grandi, come diceva lei, della rete che Ecco, gestiscono poi milioni di dati nostri. Ecco, questo naturalmente pone grandissimi dubbi sulla quantità e possibilità di controllo da parte di un governo sulle comunicazioni online e pone anche naturalmente molte preoccupazioni. Io vorrei capire da questo punto di vista, insomma, che lettura ne dà lei, perché tra l'altro so che è anche un avvocato e si occupa di questi temi, insomma, oltre a collaborare con l'Istituto Italiano di Studi Strategici. Assolutamente sì, sono un avvocato specializzato in diritto delle tecnologie. Beh, allora c'è la prima puntualizzazione che a mio avviso è necessario fare, è sul contenuto effettivamente di questo documento e di questo ordine di cui noi abbiamo avuto visibilità da ieri. L'ordine è della Foreign Intelligence Surveillance Court e chiede di conservare preventivamente i dati di traffico telefonico e telematico, non il contenuto delle conversazioni, agli operatori delle comunicazioni americane. E quindi questo già ci stacca da un, a mio avviso almeno, da uno scenario assolutamente orwelliano di controllo globale di Grande Fratello, ma credo che sia una puntualizzazione assolutamente necessaria da fare leggendo approfonditamente quello che in realtà c'è scritto all'interno di questo documento. Quindi non il contenuto delle conversazioni, sarebbe forse anche abbastanza complesso intercettare centinaia di milioni di conversazioni che avvengono su telefonia internet ogni secondo a livello globale, ma semplicemente i dati di traffico telematico e telefonico. Questo ovviamente assolutamente comporta una serie di riflessioni giuridiche di tutela delle libertà fondamentali di ciascun utente barra utilizzatore di sistemi di telefonia, ma ovviamente ne riduce già a mio avviso la portata. C'è da fare puntualizzazione inoltre sul fatto che per quanto riguarda l'America, questo genere di ordine e quindi questo genere di intelligence collection, come si dice tecnicamente, in America, è un programma ovviamente classificato e di cui noi oggi veniamo a conoscenza, ma dobbiamo tener conto che è un programma che è autorizzato da tutte e tre le branche del governo americano e di cui gli uomini del Congresso sono tenuti costantemente informati, aggiornati per legge. Quindi insomma non è qualcosa di completamente oscuro, ma per combattere ovviamente il terrorismo, come sappiamo tutti quanti, soprattutto dall'11 settembre del 2001 in poi, si sono inaspriti un po' i controlli e le metodologie, la pervasività delle metodologie di controllo, e questi ovviamente sono i risultati. Ciò non vuol dire che è giusto, non è giusto, cioè non si entra nel merito, però insomma bisogna tenere presente che in America questo genere di operazione è un'operazione fatta con autorizzazione del Congresso, da tutte e tre le branche del governo americano e di cui i rappresentanti del Congresso, i membri del Congresso sono informati costantemente. C'è chi dice, alla fine tutto questo è una scusa, la lotta al terrorismo, anche la lotta al cyberterrorismo, alla cyberguerra, delle quali tanto si parla, anche l'ipotesi, no, se si parla tanto di cyberguerra, sono tutte scuse alla fine per tenere sotto controllo i cittadini, molto semplicemente, insomma lo scenario orwelliano che descriveva lei. Certo, beh, allora... di primo impatto mi viene da dire la verità probabilmente non la sapremo mai se effettivamente è uno scenario orwelliano oppure comunque è sono una serie di indagini, metodologie che si muovono sicuramente leggermente al di là dei diritti e di tutele della libertà solo leggermente, avvocato? Allora, sono leggermente sì, perché sono autorizzate e sono, a mio avviso, ovviamente fatte per determinate attività particolari, sì. Come per esempio diceva lei la lotta al terrorismo. È chiaro, è importante che queste attività si muovano su piani di diritto molto molto circoscritti e ovviamente normati. Tenga presente però che forse in Europa la situazione è anche peggio rispetto a quella americana, perché poi non molti commentatori hanno evidenziato questa cosa. Quindi dicevamo l'America per fare questo genere di attività, no, il congresso costantemente aggiornato, le tre branche del governo devono autorizzare, vengono presi soltanto dei dati, ma da noi in Europa c'è una direttiva sin dal 2006 che è stata recepita in Italia all'interno dell'articolo 132 del nostro codice privacy, che addirittura impone a tutti i fornitori di servizi di comunicazione la conservazione di questo genere di dati generici sul traffico telematico e telefonico di tutti i cittadini dell'Unione Europea. Quindi senza un'autorizzazione, quindi con senza prevedere un'autorizzazione caso per caso. Quindi magari cioè, guardiamo oggi alla pagliuzza americana e non guardiamo magari alla trave che abbiamo negli occhi a livello di Unione Europea e anche in Italia ben da un bel po' di anni. La ringrazio, il tempo a disposizione è scaduto, però questo è un tema interessante sul quale sicuramente dovremo tornare. Grazie a Stefano Mele dell'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli, anche avvocato, esperto di diritto digitale e di privacy. Grazie a Pietro Lacorte in regia, a Davide Ciocia per il supporto tecnico. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo, se vorrete, lunedì con noi in punto, oppure con Voto Antonio sabato prossimo dopo il GR delle 9.